Stamattina io vorrei informarmi e non saprei dove mettere i soldini che hanno da parte i miei bambini. Come faccio, come faccio? Ah, c'è Radio 24, un consiglio mi darà senza gran difficoltà. Sono bravi, sono belli, anche un poco pazzerelli. Loro sono i nostri amori, due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Chi è? C'è l'idraulico, signora. Ah, lo faccio entrare, Lucia. Buonasera, signor, sono Stagnaro. Come mai è arrivato così in ritardo? Ho infrociato la macchina, li mortacci loro, addo sta accesso. Di là, venga che l'accompagno. Dovrebbe cambiare la guarnizione della doccia. Do sta? Di là. Buon riparo. Io ho finito, sono 20 sacchi. Va già via? Beh, ho finito, che devo fare? Ho finito. E chissà a chi ha fatturato il lavoro, lo Stagnaro. Gli Stagnari, cara Deborah, buongiorno. Buongiorno, bentornata a Due di Denari, bentornata anche qui negli studi di Via Monterosa a Milano. Esatto, dopo la nostra trasferta scintillante di ieri, oggi ritorniamo nei nostri appartamenti. L'idraulico che non ti aspetti a Davos, che cosa mi è successo? Due idraulici, Deborah, esatto. insisto, perché le autorità elvetiche sospettano che due idraulici che si sono presentati per fare dei lavori lì a Davos fossero due agenti russi. Ah dai, cosa volevano fare? Installare apparecchiature per ascoltare le conversazioni dei convenuti lì a Davos. I ricchi e i potenti del mondo riuniti in queste giornate al World Economic Forum di Davos. Però, insomma, le autorità elvetiche erano un po' preoccupate della permanenza un po' troppo lunga all'interno del resort che ospita il forum e quindi li ha fermati. Loro hanno subito rivendicato di avere delle tutele diplomatiche, anche se all'ambasciata russa a Berna i loro nomi non risultavano. Detto questo, chissà se hanno fatto bene i lavori intanto. Prima cosa. E ecco, poi, ma secondo me li ha traditi il fatto della fattura elettronica. Dici? Perché non erano preparati sulla fattura elettronica e allora li hanno pizzicati subito. Ma soprattutto chissà che regime fiscale avevano, se era quello dei minimi, se avevano adottato una forma di flat tax russa, che hanno inviato il corrispettivo telematico. Non lo so, speriamo che, come dire, non si siano messi d'accordo con i partecipanti lì a Davos per, diciamo così, l'economia sommersa, che è il caso di Israele. Informale, te l'ho detto che si chiama, sì, informale. Cioè, insomma, che non abbiano fatto il lavoro in nero, che sarebbe seccante, ecco, in Svizzera poi, ecco. E dopo la nostra intro burlona, come tutte le mattine, ovviamente è giovedì, parleremo di tematiche finanziarie, anche un po' di quelle che emergono a Davos in queste ore, nella nostra consueta rubrica Investire Informati. L'anno è partito con qualche volatile nero, con qualche cigno nero, dopo la crisi fra Stati Uniti ed Iran. In questi giorni c'è il coronavirus che sta disturbando l'andamento dei mercati finanziari, ma insomma per molti si tratta di un tema un po' isolato che qualcuno coglie per prendere profitto dei rialzi abbastanza significativi dell'anno scorso. E quindi facciamo una cosa, Mauro, magari più che parlare di cronaca andiamo a cercare di capire i macro trend interessanti del momento, su cosa devono puntare le famiglie italiane per collocare adeguatamente in un medio periodo i loro risparmi. Anche perché io ho origliato così da un po' di cosa esperti, ho origliato e ho sentito parlare, spia russa. Ho sentito, mi sono vestito da idraulico, proprio da Super Mario, come quello del giochino con i baffoni, compreso i baffoni, e ho rigliato questa cosa del cigno verde. Cioè, il vero timore per un trend di lungo periodo, per una tendenza di più lungo periodo, sarebbe quella di: ce la facciamo a cogliere la conversione che deve rispondere alle preoccupazioni per il clima, quindi a una richiesta anche da parte dei consumatori, degli utenti, di una maggiore attenzione al clima? E quindi si è diffusa questa locuzione del cigno verde. Bella, bella. Ti piace? Mi piace molto. Tu pensa che il tema green oggi è anche sul tavolo di Christine Lagarde. Si riunisce la Banca Centrale Europea, il primo meeting ufficialmente sotto la sua guida, e peraltro sarà anche quella che oggi verrà varata, visto che oggi si parla di questa revisione della strategia di politica monetaria che sarà adottata da questa nuova BCE targata Christine Lagarde. Isabella Bufacchi, sul Sole 24 Ore ci ricorda oggi che ci sarà anche una Green Review nella prospettiva di potenziare il ruolo della Banca Centrale nella mitigazione del cambiamento climatico e dei rischi che ne conseguono per la stabilità dei prezzi, per la crescita economica e la stabilità finanziaria. Quindi insomma siamo proprio a tema. Hai detto niente. Allora noi abbiamo riconvocato qui un amico, devo dire, dei giovedì di Due di Denari, perché spesso torna a trovarci e noi ne siamo molto contenti. Allora diamo il bentornato a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan. Bentornato Lorenzo. Buongiorno, grazie a tutti. Allora, con lui naturalmente cercheremo di affrontare tutte queste tematiche così importanti, anche così di lungo periodo, che possono influenzare le nostre decisioni di risparmio, di investimento, di spesa. Naturalmente i numeri sono quelli abituali, con il tuo permesso Deborah li ricorderei. Ma certamente. 800240024 per chi vuole intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 per i vostri messaggi sia SMS che WhatsApp. Naturalmente poi siamo su tutti i social possibili e immaginabili, potete vederci su Facebook. Ieri sai che qualche ascoltatore si è lagnato del fatto che non poteva vederti in video perché eravamo in trasferta, e quindi invece oggi è possibile ammirare Deborah su De Facebook. Gustibus, e non aggiungo altro, pazienza. Ma no, perché invece è doveroso da parte degli ascoltatori specialmente essere attenti a, non so, come sei vestita, la pettinatura, eccetera eccetera. Spero altrettanto dalle ascoltatrici. Comunque stendiamo un velo. Diciamo che siamo anche sul Twitter, ci chiamiamo Chiocciola Due di Denari, siamo su YouTube sempre per quanto riguarda i video, perché c'è un canale di Radio 24, e poi la nostra cara vecchia posta elettronica, Due di Denari, è scritto a lettere, mi raccomando, Due di Denari @radio24.it. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo. Ci tocca ritornare su questo argomento già molto gettonato nelle nostre ultime puntate, dopo il grido d'allarme che ci ha lanciato a dirlo a Due di Denari un ascoltatore, papà di 4 figli, che avendo perso il lavoro non ha più potuto permettersi di pagare il mutuo, una rata anche molto importante, mensile 1.500 euro, e quindi chiaramente è partita l'esecuzione, il procedimento esecutivo che ha portato al pignoramento della casa. Allora, qual è la novità della quale vi vogliamo parlare oggi? Una novità contenuta nell'ultimo decreto fiscale, grazie alla quale, io la sintetizzo molto e la semplifico la notizia, poi ci ritorneremo con una puntata ad hoc, quando questa procedura si potrà fare, perché per così Brava. La felicità di Mauro la legge c'è, ma in realtà aspettiamo tutti i provvedimenti attuativi e non li vedremo almeno prima di altri 2-3 mesi. Sì, confermo, almeno prima della fine di marzo. Primo, e poi bisognerà vedere anche se le banche adotteranno ognuna l'iniziativa propria, appunto per garantire quanto il decreto fiscale appunto dice. Nella sostanza che cosa succede? Se una persona non è più in grado di pagare il mutuo e la banca passa la procedura esecutiva per pignorare l'abitazione, ci sarà l'obbligo nella sostanza per la banca di mettere a disposizione una rinegoziazione del mutuo per la persona in difficoltà o una surroga appunto dello stesso. Quindi ho molto banalizzato, ma nella sostanza si tratta di una possibilità appunto per un debitore, che in questo caso viene definito consumatore, che abbia subito una procedura esecutiva avente ad oggetto la sua abitazione principale, appunto di chiedere la rinegoziazione del mutuo. Ovviamente bisogna rispettare certi criteri, avere certe condizioni. L'abitazione deve essere la tua. Sì, tutte le condizioni e criteri sono ricordate oggi sul Sole 24 Ore, nella sezione naturalmente di norme e tributi, che Deborah ha letto religiosamente. Eppure come sempre bisogna guarda, fare stamattina. Ma certo, ma questo è naturalmente solo metà del tuo dovere, mi verrebbe da dire. Allora, questo provvedimento però, come giustamente ricordava Deborah, è contenuto sì nel decreto legge fiscale, è stato convertito in legge, è legge dello Stato, ma attenzione, mancano i provvedimenti attuativi. Uno in particolare, sono attesi entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge di conversione, quindi andiamo insomma a fine marzo per avere il provvedimento. La sostanza, detto in uno, è: se vi stanno, come dire, pignorando l'immobile perché non siete riusciti a pagare il mutuo, devono darvi, dovranno darvi, quando questo sarà attuato, una, almeno una possibilità, un'altra possibilità. Di surrogare o di rinegoziare il mutuo. Certo, la cosa importante, la voglio segnalare però subito ai nostri ascoltatori che magari intanto vanno a cercare informazioni su questa norma, è che il pignoramento deve risultare notificato fra la data del 1 gennaio 2010, sì, e quindi insomma abbiamo anche dei casi che appartengono al passato, quindi si può andare anche molto indietro, a quella del 30 giugno del 2019. Pagina 25 del Sole 24 Ore di oggi. Che cos'altro abbiamo adesso? Un'altra notizia, fammi un po' vedere. Allora, qua i buoni fruttiferi postali, quelli per i quali appunto sono stati modificati le condizioni di rendimento negli anni passati, ma le Poste italiane si sono dimenticate di comunicarlo ai diretti interessati. Due pronunce recenti per le quali appunto si sono attivate in via preventiva, ovviamente, due associazioni dei consumatori, due pronunce, una dal Tribunale di Milano con una sentenza dello scorso 10 gennaio, questo è un risultato ottenuto dall'Associazione dei Consumatori e Consumer Italia, Consumer con la K, e poi ne abbiamo un'altra di pronuncia che arriva invece da Oristano, ma qua invece è dovuto intervenire l'arbitro bancario finanziario, questo è un risultato ottenuto dall'Associazione dei Consumatori Adiconsum. Io appunto, per tutti coloro che stanno andando alle Poste a riscuotere i rendimenti dei buoni fruttiferi postali emessi un bel po' di tempo fa, ma appunto i contraenti non riescono ad ottenere quanto hanno inizialmente appunto pattuito, perché nel tempo le condizioni sono state modificate, se al titolo le Poste non hanno apposto appunto proprio la novità, la modifica della condizione, sappiate che potete ricorrere in qualche maniera per invece riscuotere l'intero importo appunto pattuito inizialmente. Il consiglio generale è quello di rivolgersi in primo luogo a un sito magari dell'associazione dei consumatori, così da capire, esatto, quanti sono i vostri possibili margini di intervento. In realtà la prima cosa da fare è fare direttamente il reclamo appunto alle Poste, dopodiché con questo reclamo eventualmente respinto si va da un'associazione dei consumatori e poi eventualmente appunto dall'arbitro bancario, che può essere che dia ragione. Allora, questa sulla telefonia mobile, Deborah, oggi la dico io, perché sennò davvero sembra che ci sia un accanimento da parte tua. Ma perché dici così? Guarda che fra un po' mi chiudono pure tutti i collegamenti. Ma tu hai dei contenziosi, secondo me, con le compagnie di telefonia mobile. No, va io bene. Ho avuto difficoltà a farmi fare questo addebito sul conto di una bolletta che io mi ostino a voler pagare, ma pare che tu però che vuoi pagare le cose, insomma, è fastidioso. Allora, che è successo? Che è intervenuta di nuovo l'Agenzia per le Comunicazioni, che ha multato le più importanti compagnie telefoniche. Faccio anche i nomi, tanto sono praticamente le maggiori. Ma quante ne hanno presi dall'inizio dell'anno? Almeno tre, già questa è la terza. Allora, per TIM, Vodafone e Wind 3 c'è stata una sanzione. Perché? Perché avevano una modifica contrattuale, avevano introdotto una modifica contrattuale che consisteva in questo: finisce il credito della prepagata. Allora, dovrebbe normalmente non essere più operativa la prepagata medesima. Invece cosa succedeva? Consentivano l'utilizzo ancora della prepagata, però addebitando dei costi extra per i consumi che venivano fatti. Allora l'autorità ha detto no, in questo modo però non è che voi avete variato in maniera così indolore le condizioni contrattuali, avete introdotto una modifica pesante e quindi deve esserci una accettazione esplicita da parte degli utenti. Questa non c'è stata e allora mi dispiace, ma così arrivano le sanzioni, oltre 2 milioni di euro di sanzione. Bene, l'ultima rubrichetta di oggi e poi partiamo con Investire Informati. Dillo a due di denari. Buongiorno. Gli attuali rendimenti bassi dei titoli di Stato italiani sono da una parte un problema per i risparmiatori, ma dall'altra parte ciò invece risulta favorevole proprio per lo Stato. Quindi conviene veramente che i rendimenti salgano? Grazie. Sai che faccio? Attacchiamoci direttamente alla sigla di Investire Informati. Brava. Investire Informati. Lorenzo Alfieri, per la verità l'abbiamo spiegato tante volte, certamente una situazione del genere le casse dello Stato italiano magari si trovano nel rischio di non vederla mai più ripetuta in futuro, per cui ne stanno approfittando e peraltro hanno anche provato i funzionari del debito pubblico ad allungare la durata del debito proprio per avvantaggiarsi di questa situazione di tassi così rasoterra, oserei dire. Sì, buongiorno a tutti, non ci dimentichiamo che ovviamente sono i mercati che determinano la possibilità di spingersi verso certe durate o meno, quindi è chiaro che, devo dire in modo molto brillante, comunque il tesoro italiano è riconosciuto universalmente essere sempre stato in grado di gestire al meglio, attraverso le aste, attraverso la modulazione nella tempistica delle scadenze, il nostro debito. Devo dire che questo è riconosciuto a livello internazionale. Sostanzialmente questa, diciamo così, asimmetria tra quello che è bene per lo Stato e quello che magari sarebbe meglio per un risparmiatore che volesse sottoscrivere il debito italiano, però complessivamente direi è meglio che le cose siano favorevoli per lo Stato piuttosto che dover lucrare qualche così decimo di punto, perché poi davvero siamo in un periodo comunque che mi immagino durerà ancora a lungo, ma questa è già una prima domanda che le faccio, dottor Alfieri, di tasse molto bassi, molto risicati. Se uno cerca dei rendimenti consistenti deve assumere anche molti, molti rischi, e quindi rischi anche di perdere il capitale. Sì, non ci dimentichiamo che purtroppo il debito italiano è molto grande, e quindi abbiamo visto che nelle tempeste finanziarie, nelle situazioni di tensione geopolitica nazionale e internazionale, lo famoso spread è salito, e ovviamente non ci dimentichiamo che il conto lo paghiamo tutti noi, quindi è molto meglio giustamente ragionare per il bene, diciamo, comune del debito piuttosto che nell'interesse del singolo investitore, che probabilmente alcune volte ha un interesse asimmetrico assolutamente rispetto. Vorrei ancora con una domanda mantenermi su questo argomento, poi giriamo pagina, parleremo di investire in temi sostenibili, parleremo anche di aree emergenti, cercheremo di capire dove sono anche le opportunità di investimento in questa particolare fase economico-finanziaria che ha anche molti condizionamenti geopolitici. Ma oggi si riunisce la Banca Centrale Europea con la guida di Christine Lagarde ed è stata tanto annunciata questa revisione della strategia di politica monetaria. Ci può spiegare che cosa pensate voi operatori del settore finanziario che decida oggi la Banca Centrale Europea, per capire anche un po' gli impatti nella nostra quotidianità di queste nuove misure che potranno essere oggi annunciate? Ma diciamo che innanzitutto il clima è moderatamente favorevole, cioè in Europa abbiamo una crescita molto moderata e un'inflazione molto bassa. È chiaro che la Banca Centrale sta cercando di comunque portare a termine un po' la politica che è stata iniziata dal precedente presidente, da Draghi, e che ovviamente si sofferma da una parte di cercare e proseguire in una fase di crescita che sia più armoniosa all'interno del paese europei, dall'altra parte cercare di stimolare in qualche modo la crescita e evidentemente anche trovare livelli di inflazione più consoni, però superando alcune, diciamo, contrasti interni. Sappiamo che ad esempio i paesi dell'area, per così dire, teutonica tedesca vorrebbero porre magari il livello di inflazione leggermente più basso, mentre quelli dell'area mediterraneo vorrebbero ovviamente guardare a un'inflazione del 2% sopra come target. Quindi evidentemente il nuovo presidente sta cercando di trovare un equilibrio anche all'interno delle varie banche dei singoli paesi per disegnare una politica monetaria che rispecchi ovviamente queste diverse esigenze. E ribadisco, questo è il motivo per cui è stato scelto l'avvocato in questa posizione. Se ne è tanto discusso della sua eventuale competenza da economista o meno, è stato scelto l'avvocato perché deve ricomporre, deve insomma gestire anche molte situazioni diplomatiche indefinite ed incerte nel deve contesto passare della BCE. Un po' dalla, diciamo, dalla politica economica alla politica, forse tu curi in un certo senso, no Alfieri? Questo è un po' il senso ultimo del mandato per Christine Lagarde. Assolutamente, non ci dimentichiamo che Lagarde, ma lo stesso Draghi, avevano sollecitato i paesi da più tempo di introdurre politiche fiscali più importanti per il rilancio delle economie dei singoli paesi. Sappiamo benissimo che negli ultimi anni politiche fiscali spinte non ci sono state, e quindi ovviamente gioco forza la Banca Centrale Europea ha dovuto sostituirsi, ahimè, ai governi. Vedremo poi in termini di Green Review che cosa annuncerà Christine Lagarde. Tra l'altro, proprio lo racconta Isabella Bufacchi stamattina sul Sole a proposito della svolta verde che potrebbe adottare anche la Banca Centrale Europea. L'istituto detiene già il 25% dei green bond, delle obbligazioni sostenibili e verdi in circolazione sul mercato, e le detiene già perché sono idonei per il programma programma quantitative easing che è stato adottato da molto tempo, appunto già dalla gestione di Mario Draghi, però la Lagarde ha detto voglio fare molto di più, per cui ormai c'è questo contesto di accordo unanime fra le varie istituzioni mondiali per fare qualcosa per gestire l'impatto dei cambiamenti climatici. Ma io voglio fare il cigno nero dello studio stamattina. Non quello verde? Cioè, no, voglio introdurre una variante rispetto a quello di cui stiamo discutendo, perché poi alla fine le società che continuano ad andare bene sembrano quasi quelle un po' storiche, per quanto nuove. Non so, ad esempio, la più grande società per capitalizzazione di mercato a Wall Street. Sì. Sai qual è, Deborah? Non fare pubblicità, tanto lo so che non è Amazon, ma comincia con la A, pure quella che vuoi dire tu. Esattamente, perché è Apple. Ma allora questo mi serve per dire, tra l'altro, le trimestrali che via via stanno uscendo negli Stati Uniti stanno confermando che insomma non c'era un rischio di bolla in qualche modo, o almeno così. Sai che pare. Ha guadagnato il 90% l'anno scorso Apple? La signora Apple. Sì, esatto. Noi naturalmente siamo prezzolati per fare questa pubblicità alla società di Cupertino. Ho una fornitura di iPhone per me, per tutte le generazioni future che verranno dopo i miei nipoti. Scherzi a parte, Alfieri. Allora, economia di una volta, come dire, economia che si tocca, perché Apple, sì, è vero, società nuova, società digitale, ma oramai consolidata, possiamo dire che è un po' old economy anche Apple per certi versi. Oppure invece bisogna andare a cercare cose diverse, bisogna cercare di intercettare da subito, ad esempio la spinta per il verde, per l'ecologico, per il sostenibile. Beh, sicuramente uno degli elementi più interessanti di questi mercati finanziari è la ricerca verso tematiche nuove, tematiche trend di medio-lungo termine. Non ci dimentichiamo che molti di questi trend sono stati innescati da un'innovazione tecnologica che è, posso dire, mirabolante negli ultimissimi anni. Abbiamo innovazioni tecnologiche che colpiscono anche settori molto tradizionali, e quindi anche lì si possono andare a cercare aziende che, pur lavorando in segmenti tradizionali, sono stati in qualche modo coinvolti e avvolti in queste fasi di crescita. Ecco che lì si possono nascondere delle interessantissime opportunità, a prescindere dal fatto che sappiamo Amazon, Apple, Facebook e altri, Netflix e altri nomi hanno ovviamente corso molto, ma l'innovazione tecnologica fortunatamente è un elemento completamente trasversale, e quindi questo facilita anche noi gestori a trovare nella cosiddetta old economy magari delle perle che ovviamente affrontano i mercati con innovazioni estremamente sofisticate. Ne parlavamo ieri a Vicenza Oro, no? Anche il settore orafo, estremamente tradizionale, che dà lustro a molte aree del nostro paese, si sta sempre di più digitalizzando, ormai i prototipi vengono confezionati, ideati in versione 3D, e quindi anche lì abbiamo compreso come effettivamente questo ragionamento che sta facendo Lorenzo Alfieri sia totalmente pertinente. Ci mancherebbe altro che lo metta in discussione. Vediamo allora come stanno reagendo adesso i mercati, sì? Finanziari. Sono le 11.30, cara Deborah, per favore, le borse. Ritroviamo che il senso dell'uomo nonostante la borsa. Due di denari. Parlare di cigni questa mattina mi sembrava il minimo mettere. Ah, siamo andati sul balletto classico. L'aria del più celeberrimo balletto. E allora devo dire che di tanto sento in tanto. Molto poetica stamattina. Di tanto in tanto Marco Lombardo e anche tu, insomma, andate un po' via per la tangente. Ricordiamo che per tutta la settimana le nostre puntate si concludono con le varie esecuzioni di Bang Bang, o se volete il titolo originale, Ma Baby Shot Me Down, perché così è partita questa specie di concorso di cultura musicale, sì. Cultura musicale pop, certo. Per cui ci è stato ricordato chi ha interpretato questa canzone. Restiamo alle cose importanti, i medanè, i soldi, i miei sparata, risparmi. Anche se qualche sparata sui mercati ad inizio d'anno l'abbiamo vista, in questi giorni abbiamo il coronavirus, abbiamo parlato della crisi Stati Uniti-Iran delle primissime giornate appunto dell'anno, però in tutto questo concentrarci magari su temi sporadici, ci sono temi di più lungo periodo su cui i grandi investitori stanno puntando da tempo. Lo scorso anno il tema ESG era al centro del dibattito delle società di gestione che hanno cominciato... ambiente, condizione social nel senso doppio di impatto sociale dell'attività economica, sì, ma anche presenza sui social, quindi visibilità con i vari interessati, per così dire, all'attività economica dell'azienda, e poi governance, cioè chi è che guida, come sono attribuite ad esempio le retribuzioni, esatto, qual è il piano di sviluppo, il piano di remunerazione, le questioni di genere, come vengono affrontate e gestite, ESG. Ecco, esatto, quindi tutto ciò lo scorso anno è stato il grande tema di dibattito e di sollecitazione anche verso i risparmiatori di presenza sul mercato di strategie di investimento di questo tipo. Credo che adesso ormai gli intermediari siano andati all'attacco, passate il termine, per cominciare a proporre in maniera seria ai risparmiatori queste possibilità appunto di investimento. E allora, Lorenzo Alfieri, siamo ad una fase matura di questa proposta che ormai ha anche dei connotati commerciali al risparmiatore, oppure c'è ancora tanto da fare per quello che riguarda la divulgazione, la comunicazione di questi argomenti? No, allora, fortunatamente innanzitutto sottolineare che la finanza si è resa conto dell'importanza della cosiddetta sostenibilità degli investimenti, quindi diciamo che è una fase di iniziale di crescita di questa consapevolezza. Vediamo che molti operatori stanno proponendo via via sempre in modo più massiccio prodotti che abbiano questo tipo di dinamica, che rispecchiano quindi i criteri cosiddetti, giustamente come avete definito voi, ESG. Perché siamo all'inizio? Perché siamo all'inizio, chiaramente ci vuole del tempo per anche capire realmente certe dinamiche, perché le reti distributive imparino a muoversi su un tavolo che è diverso rispetto a quello precedente, anche perché ad esempio la valutazione, i parametri di riferimento non sono ancora ben definiti per definire un'azienda che sia cosiddetta ESG compliance, cioè rispecchi questi criteri, e anche i prodotti sottostanti, i prodotti finanziari rispecchino a loro volta in modo adeguato certe caratteristiche. Quindi siamo in una fase evolutiva, ma direi che è una fase definitiva. Ciò vuol dire che non si tornerà più indietro, vuol dire che d'ora in poi la finanza dovrà tenere in seria considerazione questi criteri, e credo che dall'altra parte molto interessante anche l'evoluzione delle aziende, che consapevoli ormai della necessità di essere molto più trasparenti su questi temi, si propongono ormai agli investitori in modo diverso rispetto al passato, tenendo bene in considerazione certi angoli, certi aspetti, e spiegando agli analisti o agli investitori in modo molto più ampio e dettagliato rispetto al passato cosa stanno facendo su questi tre piani. Alfieri, questo, quando ne abbiamo parlato molte volte l'anno scorso di questi criteri ESG, siamo spesso tornati su questo aspetto: investire verde, investire con sensibilità ambientale, ecologica, eccetera, fa rendere meno, è vero o non è vero? Quello che invece stiamo un po' vedendo quest'anno, e anche sulla base di cambiamenti di orizzonte di altissimo livello, penso appunto anche a quello che hanno votato nelle maggiori società americane, è che si sta avviando una preoccupazione, come se la finanza avesse così elaborato una preoccupazione per andare più sul lungo termine, più sul medio-lungo periodo. Forse stiamo imparando ad essere meno speculativi di breve termine e abbiamo più di mira il cambiamento climatico, allora ci porta anche a ragionare su archi temporali più lunghi? Allora, innanzitutto diciamo che non necessariamente ESG deve sposarsi solo sul verde, perché come è stato correttamente da voi evidenziato si parla anche di governance, quindi di una corretta gestione della struttura organizzativa interna delle aziende, si parla di social, cioè l'interazione che un'azienda può avere con le comunità presso cui l'azienda ad esempio opera. Quindi ci sono temi che ovviamente, oltre a quello environment, cioè verde, riguardano anche tanti altri aspetti, il sociale e la governance, quindi sono temi questi, come correttamente esposto, di medio-lungo termine. All'interno ovviamente di questo framework molto ampio, le aziende via via si dovranno adeguare e dall'altra parte gli investitori dovranno evidentemente valutare quanto le aziende rispondono a questi criteri. Sicuramente non è un tema per così dire tattico, cioè cosa vuol dire di breve termine, questo è un'evoluzione di medio-lungo termine che chiaramente porterà sia le aziende a muoversi in modo diverso, sia gli investitori a muoversi nella costruzione dei portafogli in modo completamente diverso rispetto al passato. Alfieri, a completamento di questo ragionamento, proviamo a suggerire un comportamento operativo ad un risparmiatore che magari vuole fare una scelta in questo campo. Ammettendo di avere a breve una chiacchierata con il proprio consulente finanziario, che tipo di domande deve fare un risparmiatore al suo consulente, magari al suo intermediario finale, per capire se la soluzione di investimento che ha il timbro, il marchio ESG è esattamente allineata al ragionamento che stava facendo fino a questo momento e non è solamente il frutto di una politica di marketing di una banca o di un soggetto finanziario che dice propongo questo prodotto perché lo fanno tutti, adesso anch'io metto un bollino in un prodotto simile, ma insomma magari non è esattamente allineato ai criteri che ci suggeriva prima. E se un consulente arrivasse con un prodotto JP Morgan, no? Ammettendo lei è qui, io avrei fatto la stessa domanda anche se ci fosse stato un altro intermediario. Ci racconta voi che cosa fate esattamente, che cosa ci mettete di ESG all'interno dei vostri prodotti che hanno questa caratteristica? Quindi due domande che è abbastanza complicate, vediamo se ce la facciamo a farle entrambe. Allora, prima velocissima della pausa. Innanzitutto la prima domanda rispondo: chiedere se possibile al consulente, al professionista del risparmio, di darmi delucidazioni, informazioni un po' più dettagliate su come la società di gestione sottostante si muove verso questo tema, avere quindi informazioni di quali modalità spingono il gestore a investire, se la stessa società di gestione ha al suo interno delle attitudini ESG nella governance, nella struttura organizzativa, nel modo in cui socialmente collabora verso le comunità o quant'altro, quindi avere evidentemente informazioni le più ampie possibili. Per quanto riguarda la seconda domanda, ecco, all'interno del mondo JP Morgan Asset Management la nostra attività di gestione già da tempo ha completamente integrato il processo di selezione. Vuol dire semplicemente, in modo molto veloce, che quando un nostro gestore va da un'azienda fa compilare un questionario all'interno del quale circa l'80% delle domande sono relative ovviamente proprio ai temi ESG, e quindi evidentemente il filtro dell'analisi viene fatta a monte. Questo vuol dire che già all'interno dei nostri portafogli ci sono solo aziende che rispondono pienamente a certi criteri. E se le risposte sono insoddisfacenti, uscite da quell'azienda oppure invitate il manager, l'industriale, l'imprenditore ad un cambiamento? No, non investiamo proprio, perché sono il momento precedente l'investimento. Quindi è preliminare, quando vengono fatte le prime interviste, i primi incontri con l'azienda per capire se è un'azienda che può interessare o meno all'interno dei essere introdotta all'interno dei nostri portafogli. Allora, io invece voglio andare al brevissimo, brevissimo, brevissimo termine, perché... Ah, giusto, era pure tardi e non me lo ricordo mai l'appuntamento del giovedì. Con tempestività la regia mi passa la palla. La temibile Marta Cagnola, non fare domande di spettacolo perché sennò la matita rossa. Allora, domanda per aggiudicarsi una copia del prezioso libro Risparmiare è facile se sai come fare, scintillante come te ieri a Vicenza Oro. Esattamente, libro scritto da Deborah Rosciani e Mauro Meazza, che vi sta parlando e vi pone anche la domanda, però accettiamo risposte solo a 800 24 00 24. Vi chiediamo: qual è la società più grande per capitalizzazione di mercato a Wall Street? È stato detto traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Due di denari. Allora, ripeto a beneficio di tutti gli ascoltatori la domanda, chi risponde esattamente per primo, telefonando all'800 24 00 24, non accettiamo risposte per altri canali. Allora, chi risponde per primo avrà in omaggio il nostro libro Risparmiare facile, sai come fare, che è edito per i tipi del Sole 24 Ore. La domanda è la seguente: qual è la società più grande per capitalizzazione di mercato a Wall Street? L'abbiamo detto nella prima parte della trasmissione. Invece, cara Deborah, vorrei fare una domanda così un po' brutale a Lorenzo Alfieri. Ma non essere inospitale nel no, nostro non voglio essere inospitale, però insomma abbiamo parlato di tante cose, la tecnologia, la BCE, la svolta verde, il cigno verde e così via. Adesso io vorrei capire, sì, ma nell'agenda di JP Morgan il primo tema che avete in evidenza per il 2020 qual è? Paesi emergenti, nel senso che il clima è generalmente favorevole, come abbiamo detto, moderata crescita negli Stati Uniti, in Europa, inflazione sotto controllo. Ecco, i mercati emergenti secondo noi sono rimasti sostanzialmente indietro, tasso di crescita previsto nel 2020 un 4,6 in netto rialzo rispetto al 4,2 del 2019. Alcuni paesi, li cito, che stanno direi andando particolarmente bene. Brasile, dopo una fase molto complicata, adesso finalmente il momento delle riforme sembra essere possibile e plausibile, inflazione in ribasso. Il Messico dovrebbe continuare a beneficiare di un forte ribasso dei tassi e ovviamente di una locomotiva, quella americana, che ovviamente è il primo importatore dal Messico. Poi abbiamo la Turchia che ritorna dopo una fase molto convulsa sui mercati internazionali, ci aspettiamo un buon apprezzamento della valuta locale e un forte ribasso dei tassi e infine l'Asia, Corea, Taiwan e Cina. Sono tre paesi che crediamo nel 2020 potranno confermare tassi di crescita sicuramente molto più interessanti di quelli, ahimè, che abbiamo in Europa. Me li sono segnati perché volevo capire se riuscivo ad elaborare un acronimo come quello che andava tanto di moda qualche anno fa, i BRICS. Esatto, e adesso mi devo mettere un po' a studiare per comporre in maniera interessante. Allora, intanto che tu ci pensi, io insisto su questa cosa, i mercati emergenti, perché capisco che ci siano delle crescite, delle potenziali di crescita molto interessanti, mi sembrano però dei terreni un pochino così più rischiosi, non so se politicamente parlando, sì, politicamente ma anche come investimento, cioè non mi affiderei in toto così, avendo con tutto quello che ho nel portafoglio messo subito su questo tavolo, eccolo, forse solo una parte. Assolutamente, innanzitutto corretto ricordare che i mercati emergenti si chiamano emergenti perché i mercati sottostanti, quindi dove vengono quotati i titoli delle società dei vari paesi, sono ahimè molto piccoli, sottili, quindi sono soggetti a forte volatilità. Secondo luogo, nei mercati emergenti è sempre stato vincente il medio-lungo termine e quindi tenere i portafogli su questi paesi in un periodo di tempo lungo. Terzo, molta diversificazione, perché chiaramente sappiamo, e l'abbiamo visto l'anno scorso, 2019, Venezuela e Argentina in tempi molto brevi hanno avuto forti correzioni e soprattutto evoluzioni sfavorevoli in tempi molto brevi. Quindi direi che bisogna avvicinarsi a questi paesi ricordando poi di non destinare una quota non superiore al 5-7% del proprio portafoglio a queste aree che sicuramente sono molto interessanti, ma come abbiamo detto presentano comunque dei rischi significativi. Sottoscrivo pienamente, raccontando agli ascoltatori che lo scorso anno, sentite che cosa è successo in Argentina, è stata la miglior borsa di queste aree emergenti in assoluto, ha guadagnato quasi il 40%, ma nella seconda parte dell'anno ha avuto un nuovo spettro default sul debito pubblico. Quindi proprio per ancora una volta spiegare quanto sia contraddittoria la storia appunto di queste aree e quanto sia difficile essere posizionati, se lo si fa in un singolo paese, appunto su questi mercati. E quindi non sono adatti a chi diciamo guarda compulsa avidamente giorno per giorno le quotazioni. Prego, utilizzando strumenti adeguati, fondi ben diversificati, gestiti in modo corretto, è fondamentale sono questi. Un investitore in euro, come possiamo essere io e Mauro, qual è il miglior approccio verso questi mercati? Peraltro, puntare sul rischio del cambio o proteggersi dal rischio del cambio? Perché anche quello è un tema di grande oscillazione, no? Assolutamente, diciamo che generalmente questi fondi specializzati sui mercati emergenti tendono a coprire anche eventualmente il cambio o in tutto o in parte, quindi diciamo che per noi europei è sempre importante guardare appunto alla modalità con cui viene fatta la cosiddetta copertura o hedging. Tra l'altro mi ero portato anche un grafico, Mauro, che ci raccontava come negli ultimi 5 anni il Morgan Stanley Capital Index sui mercati emergenti sia cresciuto intorno al 37%, invece l'indice che ci rappresenta le azioni di tutto il mondo sia cresciuto quasi del doppio. E quindi dove stanno tutte queste potenzialità delle aree emergenti, Alfieri? Beh, esattamente nel fatto che nell'indice complessivo di tutti i mercati finanziari, l'MSCI World, ci sono i cosiddetti fantastici titoli tecnologici, ecco, che sono molto meno rappresentati nei mercati emergenti tradizionali. Però la notizia è che ci sono forti cambiamenti anche sui mercati emergenti. Alibaba è solo un piccolo esempio, quindi i mercati emergenti sono in questi ultimi anni fortemente cambiati a favore dei titoli tecnologici. Ne faremo un'intera puntata di questo argomento prossimamente, ma a proposito di titoli tecnologici vogliamo sapere la risposta alla domandona che abbiamo fatto e che consentirà a un ascoltatore di aggiudicarsi una copia a gratis del nostro libro Risparmiare facile, sai come fare, in tutte le librerie, anzi nelle migliori librerie. Certo. Ci ha chiamato Antonio dalla provincia di Roma. Antonio, buongiorno. La risposta? Amazon. Accidenti, no. Ci ha chiamato però anche Elia da Milano. Elia? Io pensavo Apple è giusto. E allora 400 miliardi di capitalizzazione. Allora abbiamo dato anche tutti i dettagli, lasciamo la parola a Dalida per Bang Bang. Noi torniamo domani Alfieri, grazie per essere stato con noi, a presto.